Europa 24. Bentrovati da Roberta Pellegate dalla redazione. Crisi dei rifugiati e Brexit, questi due principali temi discussi ieri sera nella cena informale a Strasburgo tra il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel, su invito del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, un incontro che ha preceduto il viaggio della Merkel in Turchia. Quando un problema colpisce la Germania, allora diventa europeo. Sembra questo il modo di agire della cancelliera tedesca Angela Merkel alle prese con il tema dei migranti. Fino a quando il problema colpiva Italia e Grecia era un tema sostanzialmente nazionale. Quando i migranti hanno bussato alle porte della Germania, allora Berlino si è mobilitata. Oggi Merkel incontra il presidente turco Erdogan e il premier Davutoğlu. I governi di Berlino ed Ankara si sono incontrati a ripetizione in quest'ultimo periodo, 3 volte dall'inizio dell'anno, alla conferenza di Londra dei paesi donatori per la Siria e pochi giorni fa a Berlino per consultazioni bilaterali tra i due paesi. Ma anche al vertice UE-Turchia di fine novembre e al G20 ad Antalya e nel corso di una visita di Merkel a Istanbul a metà ottobre. Ora la Merkel vuole alzare da 3 a 5 miliardi di euro gli aiuti ad Ankara per convincere i turchi a tenere i rifugiati sul loro territorio. Ma continuando a gestire in modo episodico il tema, si rischia di far saltare i già precari equilibri europei. Primo fra tutto il ritorno della Grexit, cioè l'uscita dalla Grecia dall'euro prima e ora dalla zona Schengen, senza un approccio complessivo di tutti i problemi. E gli interessi in campo non si risolverà la intricata matassa dei migranti, del terrorismo e dei debiti sovrani. 3 crisi in contemporanea sono troppe anche per la potente Germania. Vittorio Darolde, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si è concluso in questi istanti l'incontro ad Ankara tra il premier turco Davutoğlu e la cancelliera tedesca Angela Merkel. A quanto dichiarato da Davutoğlu, Turchia e Germania lavoreranno insieme per cercare di coinvolgere la NATO nel frenare il flusso di rifugiati e per risolvere la crisi dei profughi di Aleppo. I ministri dell'economia di Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Belgio e Lussemburgo hanno scritto una lettera comune alla Commissione europea mettendo in guardia dal fortissimo rischio che corre l'industria dell'acciaio europea a causa del dumping cinese. Lo scrive il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che anticipa la lettera. L'Unione europea, si legge, non può stare a guardare senza muoversi di fronte al rischio acuto che il settore dell'acciaio europeo crolli, scrivono. I paesi dell'area OCSE sono in una fase di crescita economica stabile, mentre tra gli emergenti la situazione è disomogenea. Cina e Brasile sono in stabilizzazione, l'India si consolida, mentre la Russia perde slancio. È quanto rileva il superindice OCSE di dicembre. In Europa il ritmo di crescita rimane stabile per Germania, Italia e per l'Eurozona, mentre in Francia si consolida. USA e Gran Bretagna continuano a mostrare una crescita più moderata rispetto ai mesi scorsi, i cui ritmi erano comunque elevati. Il pomodoro San Marzano, nuovo fronte agricolo aperto tra Roma e Bruxelles. Sentiamo. Flessibilità e questioni agricole ruota intorno al pomodoro San Marzano, l'ultimo casus belli del confronto fra Roma e Bruxelles. L'ultimo di una lunga serie di querelle sull'agroalimentare, uno dei comparti dove brillano le eccellenze del Made in Italy. Il fronte, aperto pochi giorni fa, riguarda la varietà di pomodoro San Marzano che, secondo il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, può essere coltivata anche al di fuori dell'area geografica delimitata, cioè quella della denominazione di origine protetta italiana pomodoro San Marzano dell'agro sarnese nocerino. In particolare preoccupa i produttori italiani il fatto che questa varietà possa essere coltivata anche in Belgio, anche se non venduta come DOP. Tra l'altro, sempre sul fronte del pomodoro, i produttori italiani e spagnoli hanno recentemente lanciato un allarme di invasione da parte di quello marocchino. Allarme cui ha risposto la Commissione europea, sottolineando come i pomodori marocchini entrati nell'Unione negli ultimi mesi siano al di sotto della quota a tariffa agevolata consentita. E sullo sfondo si intravede già la nuova battaglia, quella della possibile revisione del regolamento che tutela i vini DOP e IGP. In particolare tutte quelle denominazioni registrate e protette già dagli anni 60 e 70 che prendono il nome dal vitigno, come Lambrusco, Vermentino e in parte Sangiovese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. L'appuntamento con l'Europa torna questa sera alle 21.30 con Euson. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.